Bene, bene, bene, rieccoci qui. Siamo sempre sulla linea d'ombra e stiamo parlando della lettura della mano. Eravamo arrivati alla prima descrizione, sostanzialmente, che era quella della mano appuntita, e che secondo me, questo è un mio parere, perché a me piace molto dare la mia opinione quando leggo qualcosa, però naturalmente voi potete obiettare, dissentire, fare qualsiasi cosa contattandoci sempre attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica Hotmail. E la seconda mano, la seconda categoria è quella della mano conica, che dà l'idea di essere conica con le dita leggermente affusolate e rivela preferenza per l'istinto e apprezzamento per l'arte e anche per la passione e in realtà soprattutto passione intesa come vita sociale ed è sostanzialmente indice di una personalità facilmente influenzabile dagli altri. Non so quanti di voi si riconoscono nella caratteristica della mano conica. Io la mia mano sostanzialmente non la vedo molto conica, non la vedo molto conica. Non so. Andiamo all'altra caratteristica, sarebbe la mano a spatola. La mano a forma di spatola dà appunto l'idea che appunto la mano sia una sorta di spatola, abbia la forma appunto di una spatola. È indice di energia e natura indipendente. La persona è dotata di raziocinio e di inventiva e può diventare anche crudele. E sostanzialmente denota un carattere esplosivo e particolari abilità. Un po' particolare questa personalità della mano a spatola, soprattutto la persona che può diventare crudele. Quadrata, che è l'ultima forma in cui si può ascrivere una mano. È una mano sostanzialmente dalla forma quadrata e rivela una natura pratica con desiderio di ordine e sistema. Ha carattere deciso e costante e queste persone si dimostrano prevalentemente serrate nelle proprie opinioni, ma sono persone fortemente proiettate verso il successo. Quindi se qualcuno di voi pensa di avere la mano quadrata, è una persona fortemente proiettata al successo ed ha particolare predisposizione ad arrivarci. Queste sono le caratteristiche delle mani, che abbiamo detto è appuntite, coniche, a spatola oppure quadrate. La più diffusa si dice che sia la mano a spatola, la mano conica, scusate. Io ogni tanto qui mi perdono i miei appunti perché sono davvero tantissime. C'ho delle sottolineature, c'ho dei fogli di carta in cui ho scritto le caratteristiche delle mani, delle dita e quant'altro. Ho ancora tempo prima di dare il brano musicale, quindi passerei alle aree del palmo della mano. Le aree del palmo della mano, scusate, sono 9. Vengono suddivisi con i nomi dei pianeti, che sono Venere, Giove, Saturno, Apollo, Mercurio, la Luna. Poi c'è Marte inferiore, la pianura di Marte e Marte superiore. E la mano, attraverso le righe che noi vediamo, che sono impresse appunto sul palmo, ha particolari significati. E già il capitolo 2 di questo libro di cui vi ho detto poc'anzi, che è una sorta di manuale, si chiama appunto Come leggere la mano, e va a denotare appunto delle specifiche aree. Oltre alla caratteristica della mano appuntita, conica, spatola e quadrata, la mano appuntita, che era il primo genere che abbiamo visto, sostanzialmente si presenta quale quella che noi nel gergo comune chiamiamo la mano da pianista, che è molto magra e affusolata, e c'è scritto appunto nel manuale che è molto rara appunto questa. Poi parla anche di flessibilità delle mani. Le mani che possono essere rigide, flessibili, estremamente flessibili e sono le tre categorie in cui appunto vengono ascritte. Io però non mi focalizzerei molto sui dettagli che per voi potrebbero risultare noiose, come ad esempio la consistenza della mano che può essere dura, solida, molle e flaccida, che denotano sempre delle caratteristiche, soprattutto dell'aspetto fisico, quindi non penso che sia particolarmente interessante per voi, non vorrei diventare noiosa soprattutto. Poi anche le caratteristiche della lunghezza delle dita lunghe, che sono indice di amore per il dettaglio, e dita corte, che caratterizzano una natura svelta pressoché equivalente a impazienza, È un desiderio di considerare un soggetto nella sua interezza e lasciare i dettagli al dopo.